Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di una cosa che è capitata e che riguarda insomma le poste italiane, no? Ormai le poste non sono più solo poste, ma hanno a che fare proprio con i nostri conti correnti, è praticamente una banca, no? A tutti gli effetti. Sì, sono una banca, se non anche un mini market, ormai ecco. Le poste hanno perso quello che era un po' la finalità principale di inviare raccomandate o lettere, ma si stanno sempre più diversificando su quella che è una società di servizi, soprattutto di prodotti finanziari. E sì. In questo caso, sotto l'occhio del ciclone, è finita nuovamente le poste, proprio per questo motivo qua, perché una socia dell'Adico di poche settimane fa si è rivolta a noi in quanto ha lamentato come di fronte a un investimento che nel 2003 ha fatto con Poste Italiane di 25.000 euro, mm-hmm. Oggi si vede riconoscere solamente 10.000 euro. Ecco, quindi dal 2003 in 12 anni da 25.000 siamo passati a 10.000, sono persi 15.000 euro. La vicenda, come dite te, è iniziata nel 2003 quando la signora è stata convinta a sottoscrivere 10 quote da 2.500 euro l'una a un fondo di investimento della Real Security. Mm. Il funzionario le ha assicurato che il capitale restava integro e addirittura che dal secondo anno avrebbe avuto un rendimento dell'8,5%. La signora ha deciso di disinvestire questa somma perché aveva bisogno dei soldi e a fronte di silenzi che continuava a ricevere da parte delle poste, la quale a sua volta hanno girato l'istanza a Roma e quant'altro, e si trova a venire riconosciuti solamente un importo di 10.000 euro. Nel frattempo il finanziamento è stato trasferito nel 2011 alla Carive, addirittura la signora è rimasta anche vedova perché adesso ha 80 anni, però ci troviamo nella situazione in cui il nostro ufficio legale è capitata l'ennesima situazione in cui a essere vittime sono persone che acquistano prodotti finanziari e che a fronte di contratti sottoscritti, i quali impegnano la controparte a rispettare quelli che sono delle caratteristiche di investimento, al momento del bisogno queste caratteristiche vengono disattese. Fammi capire bene, caro Carlo, questa signora dopo un paio d'anni che aveva fatto l'investimento aveva chiesto di ritornare in possesso dei soldi, ma a tutt'oggi praticamente questi soldi non li ha avuti e gliene darebbero 10.000 dei 25.000. Allora, ad oggi la signora ha avuto solo 10.000 euro. Ad oggi quello avuto che mancano all'appello sono la rimanente parte del capitale, perché ricordiamo che la signora ha acquistato 10 quote da 2.500 euro uno alla Real Security, doveva ricevere un 8,5% di investimento dal secondo anno, tralasciando quelle che sono le quote, il rendimento che insomma il tasso avrebbe dovuto determinare sul capitale, si ritrova comunque con meno della metà dei soldi che ha investito nel 2003. E oggi ci troviamo nella situazione dell'investimento, perché questo Real Security è stato trasferito alla Carive, e la cosa più ignobile che a fronte di quella che è stata un'attività che l'ufficio legale ha fatto nei confronti appunto delle poste, addirittura le poste non hanno aderito neppure alla mediazione, decidendo anche di non presentarsi proprio all'appuntamento di fronte all'arbitro bancario, che ricordiamo è un organo di cui tu sei tenuto a dover presentare quando vieni convocato al fine di trovare una soluzione extra giudiziale e quindi più veloce, più rapida e meno costosa e anche di maggior facilità come accesso, e di conseguenza i nostri uffici stanno già predisponendo tutta l'attività per portare la vicenda di fronte al giudice. Quindi insomma la questione va avanti, poi forse proprio il fatto che hanno ceduto alla Carive questi titoli, le poste dicono me ne frego, questo è un po' il concetto. Sì, ricordiamo che però il signore ha sottoscritto il contratto con le Poste, ricordiamo che di fronte a una convocazione di una mediazione tu sei tenuto a presentare, e il fatto che non ti presenti e non avvisi neanche di questo, riteniamo doveroso aggiungere che questo è stato un atteggiamento vergognoso. Certamente è inaudito che una persona che abbia bisogno dei propri soldi, perché qui stiamo parlando dei propri soldi, si trova restituita una minima parte rispetto a quanto è stato investito, malgrado tutte le garanzie ricevute dal funzionario. Riteniamo vergognoso che dal 2003 e dalla richiesta del 2005, oggi a distanza di 10 anni, anche se ricordiamo che la signora si è rivolta da pochi mesi all'Adico, non si è arrivati ancora all'epilogo di questa vicenda. Per cui certamente è una situazione che non è la prima che noi abbiamo con le Poste, molte le abbiamo risolte positivamente, anche ricordiamo con il discorso delle Poste Pay, che insomma ci ha visto in prima fila a rivolgersi nei confronti delle Poste per oltre un centinaio di pratiche, tutte risolte positivamente, però oggi ci troviamo nuovamente a scontrarci con questa ente proprio per un atteggiamento che anche a detta dei nostri esperti risulta ingiustificabile. Come dire, continuiamo a spada tratta ad aiutare i consumatori, grazie per fortuna all'ADICO, all'Associazione Difesa Consumatori, che ci aiuta in questo. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, dove poi trovate i numeri di telefono per contattare l'associazione. Ringrazio il presidente Carlo Garofolini per averci raccontato questa ennesima vicenda. Grazie a te, Francesco, e saluto sempre gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.